Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. 18ª puntata. Quando Alfonsa venne a chiamarla, Xenia aveva in braccio la bambina, che aveva proprio bisogno di un cambio di pannolini. La affidò alle braccia della nonna e, ravviandosi i capelli lungo il corridoio, si accorse della macchia umida sul polsino e abbassò la manica del golf per coprire. Di spalle non poteva riconoscerlo e anche quando si voltò ad accoglierla faticò. Il cognome annunciato da Alfonsa forse non l'aveva neanche mai saputo, e gli anni lo avevano imbolsito di rughe ed umori. Ma riconobbe il brillante, le scarpe ancora lucidissime, ed anche la camicia, adesso nera naturalmente, era stirata alla perfezione. Lui si chinò a baciarle la mano, sbatté i tacchi e Xenia si ritrovò bambina. Con la voglia di credergli, di ritrovare con lui il tempo dei cioccolatini, dei fiori e delle papirosci. Succintamente raccontò di sé. Quello che era stato un piccolo diplomatico in cerca di occasioni, ora era salito di grado. La conoscenza che aveva della Russia ne faceva un interprete attendibile delle questioni sovietiche. Aveva un qualche potere a Mise. Grazie a quello e per l'affetto che aveva portato a sua madre, sapendola ora in difficoltà, veniva a offrirle traduzioni. Signorilmente non parlò di galera, limitandosi a definire Mimmo come assente. Parlava. Xenia aveva voglia di lasciarsi convincere. Stava lì ad ascoltarlo senza raccogliere o cercare, fra una notizia e un complimento, l'inciso stonato che avrebbe potuto metterla in guardia. Seduti vicino sul divano, lui si autorizzò a sentirsi un vecchio amico, uno di famiglia. Le prese la mano fra le sue e intanto lasciava scivolare ipotesi ed esempi di informazioni che lei avrebbe potuto fornire, notizie che certo possedeva sul partito, sull'URSS. Xenia non voleva sentire. Il buon profumo di lui la addolciva come allora, e capire era doloroso. Incoraggiato dal silenzio, lui disse anche dei possibili compensi e si addentrò in richieste più precise. «Certo vi ricorderete di Savinkov, quel fuoriuscito. Vostra madre lo conosceva bene ed era in corrispondenza con lui. Ecco, per esempio, avere notizie sue sarebbe per noi interessante e sapremmo come sdebitarci». Xenia tolse la propria mano da quelle di lui. Fingendo di accorgersene in quel momento, accostò il polsino bagnato al viso, l'odorò. «Che guaio!» disse con una smorfia. «Mia figlia è una fonte di pipì inesauribile!» Arroccata nel ruolo di madre e volendosi diversa da come sua madre lo era stata, prese a parlare di pappe e disturbi intestinali e vaccinazioni. Le maniere cortesi da cui si era fatta cullare scomparvero d'un tratto e bruscamente. Pochi momenti dopo, l'uomo chiese cappelli e guanti per andar via. Sulla soglia, con improvvisa brutalità, «Non servite, non mi servite a niente. Savinkov è morto», disse. «L'hanno ammazzato i vostri amici comunisti, a Mosca, alla Lubianca». Xenia lo congedò senza fingere cortesie. Per riprendersi ebbe bisogno di alcuni minuti e poi la sera, malgrado fosse stanchissima, faticò ad addormentarsi. Thank you. La vita per Lello e per Alfonsa si era spezzata due volte. Niente li attirava del futuro e al passato era troppo doloroso pensare. Comunque bisognava continuare a vivere e ad aiutare. Lello ebbe dei disturbi nervosi. La sua voglia di scherzare e divertirsi era come se non fosse mai esistita. La fiducia che aveva avuto nella scienza per interpretare il mondo e governarlo adesso non gli serviva più a niente. Aver condiviso quella fiducia con Enrico, anzi, gli dava ora un senso cupo di inadeguatezza, di colpa. Quando con sforzo enorme per reagire riprese in mano vecchi lavori, scoprì che qualcun altro nel frattempo aveva fatto proprie le sue scoperte. Avrei desiderato di rivendicare subito tale priorità, ma dolorose e gravissime vicende familiari di vario genere mi tennero talmente angosciato che non ebbi né il tempo né la serenità d'animo per farlo, mentre d'altra parte la improvvisa, immatura, terribile morte del mio indimenticabile figlio, professor Enrico, non permise a lui di fare eseguire sotto la sua direzione un piano di ricerche che aveva progettato sullo stesso argomento. La prigionia di Mimmo non era meno tremenda di quella morte. Saperlo vivo e non poterlo raggiungere, vederlo ad ogni colloquio più smagrito e più pallido, era per Lello un dolore che non si sopiva, neanche con le medicine che gli mandava e che erano ogni volta tutto il suo cuore. La sera, fino a tardi, rimaneva chiuso nel suo studio, da solo. Dopo aver addormentato la bambina, prima di andarsene a letto, Dvora passava a chiedergli se avesse bisogno di qualcosa. Ed era se stessa che offriva ogni volta, e la propria voglia di essere consolata, e il sogno di scoprire che non era vero niente, tutto un brutto scherzo da dimenticare il più presto possibile. Poi Lello la mandava via senza neanche guardarla, e Dvora si ritirava, a piangere, spesso, ma senza farsi sentire da nessuno. Quando, molto tardi nella notte, sulla porta appariva Alfonsa, non c'era bisogno di parole. Lello accettava di alzarsi, di lasciare la poltrona che gli sembrava ormai l'unico luogo certo del mondo, e insieme si coricavano, insonni, muti. Ci fu una sera in cui Dvora trovò Lello che scriveva, chino su molti fogli di carta intestata, e intorno ne aveva molti altri appallottolati. Fece ordine, rinunciò alla domanda consueta, perché Lello le sembrò più sereno, intento in qualcosa che dava tregua a tutto quel dolore. Quando Alfonsa entrò, Lello era pronto. In mano un foglio solo, in bella copia. La domanda di grazia e in calce tutte le benemerenze che Enrico e lui stesso avevano acquisito, in pace, in guerra. Alfonsa ascoltò, perché il crollo di Lello le impediva di crollare. Poi prese il foglio e lo stracciò. Ed era come strapparsi le viscere. Ma non poteva permettersi di perderlo due volte, quel figlio. Xenia decise di partire perché Xeniuska non la voleva più. Né accuse, né recriminazioni, né rimproveri. Un silenzio tagliente e niente di cui poter discutere. Un gelo dei sentimenti che impediva a sua madre ogni prossimità, ogni cura. Da tanto evitava gli specchi, ma le rughe dei polsi, profonde, le rinfacciavano ad ogni gesto gli anni, le fatiche. Delle mani, dei piedi piccolissimi che erano stati il suo vanto, ora aveva vergogna come di una colpa per l'artrite che li deformava. Scelse la Palestina per tante ragioni, gli amici superstiti, gli ideali e l'avventura. E perché sperò che il deserto assorbisse l'odore, quell'odore di vecchiaia che non riusciva più a togliersi di dosso. Né il lavarsi rabbioso, né il lusso tutto nuovo di qualche goccia di profumo, né gli abiti arieggiati con furia valevano a mandarlo via. Le saliva dal ventre con un sentore acido e l'avvolgeva fin su, fino alle tempie appannate e secche. Con quell'odore addosso, neanche nell'attaccamento della figlia di sua figlia, seppure Xeniuska le avesse mai concesso di avvicinarla, poteva sperare più. Occorreva un mestiere. Nei mesi a Parigi imparò da parrucchiera e intanto si guadagnò da campare. Poi si ammalò, fu in fin di vita. Seniuska non le fu vicina, mai. All'ospedale le tagliarono i capelli per risparmiarle la fatica della treccia e il peso. Si trovò ad affrontare la vita diversa che l'aspettava a testa nuda. Era tutta nuova, con la sua gonna corta e colorata, quando si imbarcò. L'incontro fu organizzato con cure meticolosissime di segretezza. Giorgione era ben noto alla polizia e Xenia oramai non lo era di meno. Un abbraccio caldo, la felicità breve di Napoli è qualcosa che sta lì fra loro ad unirli, ma non se ne può parlare, per il tempo che manca e per il dolore. Il limite segnato dalle sorveglianze è angusto, perciò il dialogo è spigoloso ed essenziale. Giorgio chiede a Xenia di seguirlo a Parigi, per entrare in prima persona nel lavoro del partito. Xenia si stupisce, non solo per il valore che implicitamente le viene riconosciuto, ma perché tutti dovrebbero saperlo ormai. «Senza di me, Mimmo dal carcere sarebbe muto», dice, e non le viene in mente che le parole di Mimmo fanno muta lei. Giorgio sospira, insofferente, ma come altre volte ammirato. Mimmo e Xenia si presentano al mondo come un'unica, inseparabile entità. Il filo che li lega appare inossidabile agli anni e alla lontananza. «Vuoi che porti qualcosa a tua madre a Parigi?» chiede Amendola. «Non vedo cosa», risponde Xenia. E un gran gelo si allarga da lei, lambendo fastidiosamente anche Giorgio. L'arrivo a Civitavecchia per Mimmo fu come una promozione. Per l'aria pura e la luce che entravano dai grandi finestroni aperti sul mare, per la presenza di tanti compagni del gruppo dirigente del partito. Dopo un periodo tanto lungo di isolamento, ritrovò il gusto della discussione, del confronto, dello studiare insieme. E le notizie che Xenia gli aveva mandato costantemente, puntinando i libri con il loro cifrario segreto, furono una carta in più per lui e per tutti una boccata d'aria fresca. La possibilità di un'analisi politica più ancorata alla realtà. Naturalmente c'erano i controlli interni, i sospetti, le regole cospirative, una circospizione diffidente che Mimmo accettò appieno, convinto fino in fondo della sua necessità. Il bisogno di distinguere nettamente gli amici dai nemici era, all'interno del carcere, acuto più ancora che fuori. E lo schierarsi comportava gerarchie, differenziazioni, alleanze ed inimicizie che incidevano su ogni momento della vita quotidiana. Per i gruppi di studio che si formavano e per il proselitismo e per gli schieramenti, le notizie che Xenia mandava costantemente erano una linfa vitale. Per Mimmo erano il suo stesso sangue, un'iniezione ogni volta di energia e d'amore. Con l'amnistia per la nascita della principessa, Lello si fece molte illusioni. Alfonso alcune gliele smontò perché già prevedeva, però lo sostenne in tutti i passi necessari. Promemoria per l'onorevole divisione affari generali e riservati. Il professor Sereni, medico presso la casa di Sua Maestà il Re, si è presentato a questo ufficio per chiedere che il figlio dottor Emilio Sereni, condannato per reato politico dal Tribunale Speciale, all'atto della scarcerazione dal penitenziario di Civitavecchia, per fine pena, che pare dovrà avvenire prossimamente, anziché tradotto a Roma, sia consegnato a lui, professor Sereni, che si impegna ad eseguire tutte le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza crederà impartirgli. Sua Eccellenza, il capo della polizia, ha consentito che sia accolta la domanda del professor Sereni, sempre quando non vi si oppongano disposizioni di legge. Il professor Sereni tornerà per una risposta. Si informa codesta onorevole divisione per quanto del caso. Roma, 4 agosto 1935. il direttore capo divisione polizia politica di Stefano. Lello dovette tornare tante volte e ad ogni scala che saliva, ad ogni porta a cui bussava, era un po' più vecchio e il prestigio di cui aveva goduto gli si sbriciolava fra le mani. Ma poi Mimmo fu a casa ed erano passati 5 anni. Lello, abbracciandolo, tornò se stesso e pensò che fosse stato un incubo e che fosse finito finalmente. Tornando da scuola, Lea Ottobrina, che tutti chiamavano Leuzzi, trovò sua madre fra le braccia di un uomo e non si staccavano, continuavano a baciarsi come fossero soli al mondo. Fece un gran colpo di tosse, sua madre, sciogliendosi dall'abbraccio, la guardò con occhi brillanti, era tutta rossa. «È arrivato papà!» disse Xenia. L'uomo le si avvicinò, la bimba capì che non poteva sottrarsi. Benché la barba lunga di lui le irritasse le guance e non le piaceva la fame di possesso che sentiva dalle sue mani. La notte Leuzzi si svegliò come altre volte per un brutto sogno. Si alzò nel buio e a tentoni cercò la strada che portava al letto di sua madre. Abbassò la maniglia, la porta era chiusa dall'interno. Rinunciò a bussare. Il freddo la tenne sveglia fino al mattino. I preparativi per la fuga erano cominciati con buon anticipo, per bruciare i tempi dell'assegnazione al confino, da cui sarebbe stato poi più difficile scappare. Xenia ebbe dal partito indicazioni precise, ordini, denaro. Alfonso non volle sapere i sotterfugi e le illegalità. Consegnò a Xenia il passaporto ormai inutile di Enrico e finse di credere che fosse soltanto per ricordo e tutto a saperlo. Avrebbe potuto svolgersi più tranquillamente, perché la stupidità dei poliziotti, l'inettitudine tutta italiana ad essere sbirri, avevano di nuovo stretto in un fascio inestricabile i 3 fratelli, il morto e i vivi, rimescolandone ineluttabilmente le caratteristiche nelle richieste di informazioni come nelle foto segnaletiche. Tutta la loro fatica di essere diversi l'uno dall'altro cancellata dalla burocrazia, dall'approssimazione. Nei dispacci che correvano da una questura all'altra, Enzo veniva talvolta indicato come detenuto, talaltra lo si dava per morto e Mimmo lo si diceva emigrato in Palestina. Le valigie difficili da preparare, nessuno era capace di immaginare la vita che avrebbero avuto. I libri Alfonso si impegnò a spedirli dopo, non chiese dove né quando. Ermelinda rivestì a nuovo la bambina. Lello la vaccinò. Angelo procurò un'automobile. Via via che la partenza si avvicinava, senza parlarne, Lello diventava più allegro. C'era un'ironia troppo percepibile nel modo in cui si scappellava davanti ai carabinieri quando li incontrava. E Xenia dovette chiedergli di non esagerare. Con i documenti in tasca falsificati, Mimmo incontrò Manlio, che aveva deciso di restare per sue ragioni o perché il partito già non si fidava più di lui. Un abbraccio forte, senza parole. Appoggiati alla spalletta di Ponte Sant'Angelo, all'ombra del castello, scherzarono sulle mie prigioni, o su Tosca, per non usare altre parole, potenzialmente più pericolose. Ancora una stretta di mano, poi Mimmo allargò teatralmente le braccia. Addio del passato, cominciò a cantare. Bei sogni ridenti, continuò Manlio, e poi insieme le rose del volto già sono pallenti. si misero dorso contro dorso come duellanti e a passi lunghi cominciarono ad allontanarsi cantando, l'uno in una direzione e l'altro in quella opposta. Per i 6 anni di Leuzzi la fuga fu una grande avventura. Per la macchina lussuosa che al massimo della velocità li condusse nella notte, per lo chauffeur in divisa che lei sapeva cospiratore di buona famiglia, tenuto per ragioni di clandestinità a rientrare in tempo per un pranzo importante, per gli abiti eleganti che li facevano turisti, per tutto quel gioco di cui anche lei era parte, il nome falso da tenere a mente e l'indirizzo, quel padre sconosciuto che era suo compito proteggere se non amare. Quando appena cominciava ad albeggiare, una sosta in mezzo alle montagne, la macchina ferma accanto al costone innevato. Un fornellino a spirito, un tegame, un pugno di neve. Con l'acqua calda Xenia fece una gran schiuma. Mimmo in fretta se la spalmò sulle guance, sul mento, un nuovo gioco per Leuzzi, come Papà Natale. Quando finì di radersi, Leuzzi dovette abituarsi ancora ad un altro viso, ma le spiegarono che proprio questo si voleva, perché neanche i poliziotti potessero riconoscerlo. E le guance di quel padre lisce erano ora meno difficili da baciare. Poi di nuovo in gara con i tempi delle questure, con i controlli e le segnalazioni. Al mattino presto Milano, e la nebbia era un buon nascondiglio. Albert Eichmann li aspettava con altri documenti, per Leuzzi ancora un nome diverso da imparare. Cominciò a temere di sbagliarsi, di poter commettere l'errore fatale, quello che avrebbe fatto precipitare sul padre tutti i pericoli che sentiva addensarsi. Si ritrovò a piangere, prima piano piano, poi con grandi singhiozzi, incontrollabili. Albert scambiò un'occhiata con Mimmo. «Non sarebbe meglio», disse, e pensava ad un sonnifero. Xenia porse alla bimba un fazzoletto, disse «Ce la farà», e le poggiò una mano sulla spalla. Leuzzi tirò su col naso. 1, 2, 3 volte. Severi Maria, anni 6, nata a Roma il 20 ottobre 1929 ed ivi residente in via, cominciò a recitare con i dati dei documenti appena consegnati. Xenia le disse «Brava!» e la paura quasi non c'era più. Si conclude qui la 18ª puntata del Gioco dei Regni di Clara Sereni, letto da Monica Piseddu in questo ciclo del programma Ad Alta Voce a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Alla regia c'era Riccardo Amorese e le puntate sono riascoltabili sul sito raiplayradio.it.